Il segreto di McDonald's, eccellenza nei tempi di preparazione. Ogni volta che addentiamo un Big Mac, spesso dimentichiamo cosa accade dietro le quinte. McDonald's non è solo sinonimo di hamburger, ma è un maestro nell'arte della gestione del tempo e dell'efficienza operativa. Come riesce a preparare un pasto completo in meno di 3 minuti, indipendentemente dal momento della giornata o dalla quantità di clienti? La risposta sta in un mix perfetto di organizzazione, tecnologia e un pizzico di genialità. La sfida, servire milioni uno alla volta. Con oltre 39.000 ristoranti in più di 100 paesi, McDonald's affronta una sfida titanica, garantire un servizio rapido e standardizzato in ogni location. Per ottenere ciò, la gestione dei tempi in cucina è fondamentale. Ogni secondo conta e la differenza tra un cliente soddisfatto e uno frustrato può dipendere da un piccolo dettaglio. Ma come si ottiene tale precisione? La soluzione, il metodo Made for You. Nel 1998 McDonald's ha rivoluzionato il proprio sistema di produzione con il metodo Made for You. Questa innovazione ha sostituito la preparazione anticipata dei panini con un sistema su richiesta che combina postazioni modulari di preparazione. Ogni stazione è organizzata per ospitare specifici ingredienti e strumenti, garantendo che i dipendenti abbiano tutto a portata di mano. Monitor e automazione. Schermi digitali mostrano gli ordini in tempo reale, così ogni squadra sa esattamente cosa preparare e in quale ordine. Tecnologia integrata. I tempi di cottura delle carni e di assemblaggio dei panini sono sincronizzati con precisione, evitando sprechi e garantendo la freschezza. Grazie a questo sistema, McDonald's può preparare un hamburger solo pochi secondi dopo che il cliente lo ha ordinato, eliminando la necessità di accumulare scorte di panini già pronti. Il ruolo della formazione. Velocità senza compromessi. Dietro ogni operatore McDonald's c'è una rigorosa formazione. I dipendenti apprendono esattamente come gestire il proprio tempo, collaborare con il team e ottimizzare ogni passaggio. Un esempio? La regola dei 15 secondi, il tempo massimo che un dipendente dovrebbe impiegare per completare una fase di preparazione dal prendere un panino alla sua consegna. Un flusso continuo, l'eccellenza della supply chain. La rapidità in cucina non sarebbe possibile senza una supply chain perfettamente orchestrata. McDonald's collabora con i fornitori che garantiscono consegne frequenti e puntuali, assicurando che ogni ristorante abbia sempre gli ingredienti necessari senza sovraccaricare i magazzini. I risultati? Tempi da record. Grazie a questi sistemi, McDonald's riesce a mantenere un tempo medio di servizio al cliente di 2-3 minuti. Questo include l'ordine, la preparazione e la consegna del pasto. Un risultato impressionante considerando i volumi giornalieri. E la cosa più incredibile? Questo livello di efficienza si ripete ogni giorno in ogni angolo del mondo. Cosa possiamo imparare da McDonald's? La storia di McDonald's non riguarda solo hamburger, è una lezione sulla gestione del tempo, l'automazione e la formazione del personale. Dal settore della ristorazione alla logistica, i principi che l'azienda utilizza possono essere adattati a molte realtà per migliorare l'efficienza e soddisfare le aspettative dei clienti. E voi come ottimizzate i tempi nei vostri processi?